Capitolo 12. Venezia, 28 febbraio 1546. Fate piano con quella. L'ho fatta arrivare apposta da Padova. Gli operai rotolano con attenzione la botte sul fondo della sala. I vecchi tavolacci sono spariti, sostituiti dai pezzi del miglior falegname di Venezia. Veli colorati coprono le vecchie pareti umide e ridipinte e un grande specchio campeggia dietro la mescita dei liquori. Rimanda l'immagine di un uomo robusto, volto segnato dal tempo e capelli grigi. Resto un attimo a guardarlo, a osservare quello che sono diventato in 45 anni di vita. Il corpo sembra racchiudere una forza ancora intatta, ma non più così pronta e agile agli occhi di chi la fece saettare sulle barricate. Che assurdo miracolo gli specchi, e questa città ne è piena. Non c'è bottega o merceria dove non si trovi in bella vista uno dei fini lavori dei mastri vetrai locali. Un mondo capovolto, simmetrico, dove la destra diventa sinistra. Non credevo di avere il naso così storto. Devo scacciare subito i pensieri. C'è ancora molto da fare. L'inaugurazione è questa sera. Donna Demetra mi viene incontro con un sorriso. Le ragazze sono pronte! Gli arrosti? La cuoca sta facendo del suo meglio. Si guarda intorno, quasi sperduta. Questo posto non sembra più lo stesso. È soprattutto merito vostro. Avete scelto con gusto. Metterete il vostro vestito nuovo questa sera? Non temete, non ho speso quella cifra per farlo ammuffire in un cassetto. Pietro Perna irrompe nella locanda a braccia spalancate. Si ferma a bocca aperta. Vede Donna Demetra, cerca di ricomporsi e avanza con un inchino. I miei omaggi al più bel gioiello di tutta Venezia. Siete l'adulatore più galante che abbia mai avuto, Messer Perna, ma siete in anticipo. Non serviremo prima del tramonto. Lo so, e vi assicuro che non vedo l'ora di gustare i piatti che avete in serbo per noi. Dunque, cosa vi porta da queste parti? Prima di varcare la soglia, ero convinto di saperlo, ma la luce dei vostri occhi mi ha confuso i pensieri. Donna Demetra scoppia a ridere, mentre prendo Perna per un braccio e lo conduco in fondo alla sala. Bando alle smancerie. Che succede? Fa un passo indietro e getta le mani in avanti. Ci sei, compare? Sei pronto? Sono tutto orecchi, parla pure. Martin Lutero è morto. Il vino scorre a fiumi dalle botti, mentre i bicchieri passano di mano in mano, in una lunga catena umana che serpeggia nella ressa del locale. Vocio di donne e uomini allegri, mercanti, affaristi e perfino qualche aristocratico di rango minore. Bindoni è alle prese con la coscia di un fagiano, che pilucca con cura, attento a non macchiare il vestito buono. Arriva bene, si fa lisciare i capelli da una delle ragazze, ridacchiando le frasi che gli vengono sussurrate all'orecchio. Perna tiene banco a uno dei tavoli, raccontando aneddoti della vita passata tra una città e l'altra. «No, signori, il Colosseo è una fregatura, un postaccio, ve l'assicuro io, pieno di gattacci rognosi e topi grandi come vitelli!» Al tavolo a fianco, quattro giovani rampolli della corporazione degli speziali spolpano ciò che rimane di un maialino allo spiedo, scambiando occhiate molto esplicite con le ragazze sedute in fondo alla sala. Dietro un capannello di teste, al tavolo appoggiato al muro, un uomo e una giovane donna si scambiano effusioni. Avvicino Donna Demetra dietro al bancone. Chi sono quei due seduti in fondo? Nessuno si porta l'amante in un bordello. Scruta e annuisce. Se la moglie di un altro, sì. Lei è Caterina Trevisano, moglie di Pier Francesco Strozzi. Strozzi? Il profugo romano? Quello che se la fa con l'ambasciatore inglese? Proprio lui. E quello che sta con lei è l'amico del marito. Aspetta, Donzellini, sì, Girolamo Donzellini. È dovuto scappare da Roma insieme a suo fratello e a Strozzi, perché lo perseguitavano. È uno studioso, traduce dal greco antico, credo. E sai perché lo perseguitavano? Donna Demetra stringe gli occhi luminosi. No, ma a Roma sembra non sappiano far altro da un po' di tempo. Rido e mando a mente il nome. Una cerchia di letterati dissidenti a portata di mano. Poco oltre, tre tizi se ne stanno, in disparte, godendosi lo spettacolo dell'allegra brigata raccolta intorno a Perna. Donna Demetra mi precede. Mai visti prima. Dagli abbigliamento direi che sono stranieri. Raccolgo una bottiglia e un bicchiere e mi avvicino al tavolo dei solitari, non prima di aver colto un frammento delle sparate di Perna. Firenze, certo, Firenze, signor mio. Lo metto anche per iscritto se volete. È la città più bella del mondo. I vestiti sono eleganti, tessuti e tagli raffinati. I tratti dei volti indubbiamente mediterranei, capelli neri, più lunghi del normale, raccolti dietro la nuca con nastri di cuoio nero, barbe sottilissime che scendono dalle orecchie fino a terminare in una punta appena accennata. Mi rivolgo loro in latino. «Salve, signori, sono Ludwig Schalidecker, tenutario della casa». Un lieve inchino del capo. «Purtroppo il mio latino c'è del passo, al portoghese e al fiammingo». «Allora potremmo intenderci con l'idioma di Anversa, se credete. Spero abbiate gradito la cena offertavi dal caratello». Un po' stupito. «Il mio nome è João Miquez, portoghese di nascita, fiammingo d'adozione». Indica il giovane alla sua destra. «Mio fratello Bernardo, e questi è Duarte Gomez, agente della mia famiglia a Venezia». Se potevo osservare qualche dubbio sulla ricchezza di quest'uomo, l'anello d'oro massiccio che porta all'orecchio sinistro lo dissipa del tutto. Poco più di 30 anni, occhi neri intensi e un buon odore di concio, spezie ed essenze marine insieme. «Volete bere con me? Saremo lieti di bere la salute di chi ci ha offerto un pasto prelibato, se volete onorarci della vostra compagnia». Mi porge la sedia, con un gesto elegante. Mi siedo. «Veramente, sapete, signore, oggi un vecchio nemico ha deciso finalmente di tirare le cuoia. Sono tentato di brindare a questo lieto evento». I tre si lanciano un'occhiata incomprensibile, come se potessero parlarsi con il solo pensiero, ma è sempre lo stesso a dare la voce a tutti. «Vorrete allora dirci chi era la persona che alimentava il vostro odio?» «Soltanto un vecchio frate agostiniano, tedesco come me, che in gioventù seppe tradire vigliaccamente me e altre migliaia di sventurati». Il portoghese sorride affabile, denti bianchissimi e perfetti. «Consentite allora che brindi alla morte dolorosa di tutti i traditori, di cui purtroppo questo mondo è pieno». I bicchieri si vuotano. «Siete da molto a Venezia, messeri? Siamo arrivati ieri l'altro. Abbiamo raggiunto mia zia, che vive qui da più di un anno ormai». «Mercanti?» Il fratello più giovane. «Qualcuno che viene a Venezia forse non lo è? E voi, signore, avete detto d'essere tedesco?» «Sì, ma ho commerciato abbastanza in Anversa da parlare la lingua di quelle terre». Miquez si allumina. «Splendida città, ma non quanto questa, e di sicuro meno libera». Il sorriso è impenetrabile, ma c'è il guizzo di un'allusione in quella frase. Riempio di nuovi bicchieri. Non sono tenuto a dir niente, sono a casa mia. «Conoscete Anversa?» «Vi ho trascorso gli ultimi 10 anni. Deve essere un caso che non vi abbia mai incontrato». «Avete dunque deciso di trasferire i vostri affari qua giù?» «Infatti. Quando sono arrivato mi hanno detto che chi viene a Venezia o è un mercante o un fuggiasco, e spesso l'uno o l'altro assieme». Miquez ammicca. Gli altri due sembrano imbarazzati. «Voi a quale specie appartenevate?» Sembra che niente possa fargli perdere l'aria serena, quella di un gatto che prende il sole su un davanzale. «A quella dei ricchi fuggiaschi, ma non ricco quanto voi, credo». Ride di gusto. «Vorrei proporvi io un brindisi, signore». Alza il bicchiere. «Alle fughe riuscite. Alle terre nuove». Gli ultimi avventori infilano la porta incerti sulle gambe, ondeggianti come barche contro vento. Raccolgo perna dal tavolo su cui si è accasciato. «Dov'è finito il tuo uditorio?» Solleva la testa con grande sforzo, gli occhi annebbiati. Rigurgita un raglio disarticolato. «Sono tutti degli stronzi. Si sono portati via pure le ragazze». «Ma che ragazze? È meglio che ti butti su un letto. Non sarà il nettare toscano, ma pure il vino veneto che ha piegato per bene». Lo aiuto ad alzarsi e lo trascino verso le scale. Donna Demetra ci viene incontro. «Cosa possiamo fare per il nostro galante libraio, che ha così amabilmente intrattenuto i nostri ospiti?» Perna, voce stridula. Guizza con gli occhi spalancati. «Mia regina delle notti insonne, queste deformi fattezze non mi impediscono di ammirarla, osannarla, adorarla». Si tuffa pesce morto nella sottana di donna Demetra, che lo cinge divertita. «Se non vi conoscessi per l'irrimediabile seduttore che siete, penserei che avete un debole per me, donna misera di conoscenze ed infinite debolezze». Lo trascino su di peso, trattenendo il suo slancio all'indietro. «Vi prego!» Riesco a buttarlo sul letto, ormai completamente innocuo, quasi esanime. «Allora, Toscano, per stanotte ne hai avuto abbastanza. Ci vediamo domattina». Con un filo di voce. «No, no, aspetta!» Mi afferra il braccio. Pietro Perna non si porta nella tomba i suoi segreti. Avvicinati. Non ho scelta. L'alito terribile di ubriaco mi investe. Sussurra. Io sono... esita. Di Bergamo. Quasi piange, come se stesse confessando un peccato innominabile. Gente gretta, donne ripugnanti, montanari, ignoranti. Ti ho mentito, compare. Ho mentito a tutti. Mi trattengo per non scoppiargli a ridere in faccia. Mentre apro la porta, lo sento ancora dire: «Lo spirito! Lo spirito è toscano!»